Le piccole banche, soprattutto diciamo quelle di credito cooperativo, si trovano in questo momento in una fase di profondo cambiamento, perché la riforma bancaria del 2016 prevede che le banche di credito cooperativo si costituiscano in tre gruppi di società per azioni, quindi che in qualche modo mutino un po' la loro natura mutualistica. E la riforma partiva dal presupposto che il modello, diciamo, di credito cooperativo fosse in qualche modo poco efficiente rispetto agli standard internazionali, almeno questa era la ragione ufficiale. Altre ragioni sono legate al fatto che alcune di queste banche mostravano dei problemi a livello patrimoniale, e alcune di queste, insomma, da quello che era possibile leggere dalle relazioni di Banca d'Italia, mostravano la possibilità concreta di finire sotto procedura di bail-in per eventualmente fragilità legate al proprio, appunto, al proprio stato patrimoniale. La riforma quindi inizialmente aveva previsto che si formasse un unico gruppo di società per azioni, poi successivamente ci sono state delle divergenze, problemi che accadono spesso in questi casi, e quindi di fatto si sono andate a costituire tre gruppi: uno che riunisce le banche di credito cooperativo dell'Alto Adige, un altro che riunisce gruppi di credito cooperativo del Trentino Alto Adige, del Nord-Est più in generale, e poi il gruppo ICCREA, che è quello più ampio, che riunisce un po' tutte le altre. E naturalmente ci sono anche tantissime altre piccole banche non di natura cooperativa, ma di natura, insomma, capitalistica tradizionale. Il fatto è che si è discusso molto di questa riforma proprio perché va un po' in controtendenza, paradossalmente, nonostante il punto sia stato detto all'inizio, proprio quando si progettava la riforma, che lo si faceva per rendere più solido e più efficiente il sistema bancario italiano. Ad esempio, il sistema bancario tedesco, all'interno di questo sistema ci sono grandi e piccole banche, comunque di credito cooperativo, che sono detenute in larga parte dalle regioni federali dello Stato tedesco, quindi sono Landesbanken, che di fatto in realtà sono state mantenute secondo il loro modello tradizionale di business, e che è l'aspetto principale, più importante, più problematico della riforma bancaria italiana. A differenza di quanto è accaduto con la riforma bancaria italiana, queste banche di natura mutualistica in Germania sono state mantenute al riparo dai nuovi criteri della vigilanza bancaria della BCE. Bisogna fare un passo indietro qui e concentrarci su cosa significa tutto questo. Con l'introduzione del meccanismo unico di supervisione delle banche, di fatto la BCE, almeno la sua sezione della vigilanza, ha creato due tipologie di vigilanza a cui le banche possono essere sottoposte. Idealmente, diciamo, le banche più grandi e più importanti in qualche modo vanno a finire direttamente sotto alla vigilanza della Banca Centrale Europea. Infatti vengono chiamate banche significative, con, diciamo, con termini inglesi di significant. Le banche che invece non dovrebbero avere questo status, questa importanza sistemica, vengono definite meno significative, e la loro vigilanza viene in qualche modo deputata alle banche centrali nazionali. Ora, ecco, la grande asimmetria a cui andiamo probabilmente incontro è che due di questi tre gruppi bancari che si sono formati e che raduneranno quelle piccole banche di credito cooperativo, in realtà finiranno, diciamo, a differenza delle loro controparti tedesche, nel gruppo di quelle significative, quindi nel gruppo di quelle vigilate direttamente dalla Banca Centrale Europea. E perché questo è importante? Perché i criteri stabiliti dal meccanismo unico di supervisione, che sono appunto mantenuti dalla BCE, penalizzano fortemente, e questo è stato detto da molti osservatori, da molti economisti, ed è anche oggetto in questa fase di produzione scientifica di Banca d'Italia, che inizia a pubblicare paper su questo. I criteri appunto del meccanismo unico di supervisione penalizzano molto il rischio di credito, cioè attribuiscono una grande importanza nella vigilanza ai prestiti sostanzialmente erogati dalle banche direttamente, diciamo, all'economia reale, mentre in qualche modo non sanzionano quasi per nulla il rischio di mercato, cioè in qualche modo attribuiscono una minore importanza regolamentare a tutte quelle forme di investimento che le banche vanno a realizzare come trading proprietario, quindi praticamente agendo direttamente come se fossero degli operatori di mercato a sé stante, oppure gestendo per conto della clientela comunque titoli, derivati e quant'altro. Quindi in sostanza il punto qual è? Che siccome le banche di credito cooperativo sono vette di rischio di credito, perché il loro core business non è senz'altro, diciamo, quello di investire sui mercati, ma è quello di erogare credito, se queste vengono riunite all'interno di unici gruppi SPA che poi finiscono direttamente sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea, sicuramente è possibile che venga richiesto loro di accantonare più capitale totale per ogni prestito effettuato, e questo vuol dire che se questi criteri colpissero in maniera, diciamo, profonda l'operatività di queste banche, ci si può aspettare in sostanza una riduzione della loro attività di prestito alle imprese. E questo è particolarmente rilevante perché le imprese che queste banche di credito cooperativo finanziano sono soprattutto le piccole e medie imprese che caratterizzano un po' il tessuto industriale del paese, per cui l'attenzione è molto alta, magari non nei media, ma insomma all'interno di chi poi queste regole le utilizza, le predispone e sulle quali dovrà poi operare, perché siamo di fronte, diciamo, a un cambiamento molto importante della natura del business di queste banche, che potrebbe condizionare molto anche la natura dell'accesso al credito per moltissime piccole e medie imprese. E mi pare di capire che potrebbe avere anche ripercussioni sull'economia italiana più in generale. Sostanzialmente sì, e già si vedono i primi effetti, nel senso che si parla di esuberi nell'organigramma di molte banche di credito cooperativo, così come di esuberi all'interno delle organizzazioni che sono associazioni di categoria e che gestiscono un po' l'operatività di raccordo tra queste banche. E ci si potrebbe trovare di fronte al paradosso che, in un certo senso, mentre la Banca Centrale Europea continua nella sua veste di politica monetaria a cercare di rendere il credito sempre meno costoso con questi tassi bassi di interessi, non sappiamo ancora per quanto, ma sicuramente la posizione viene ancora mantenuta, e poi con l'altro braccio, quello della vigilanza, rende più difficile, diciamo, l'erogazione del credito proprio a quelle banche che in sostanza sono, diciamo, di minore dimensione e che avevano, almeno fino a prima della riforma bancaria, una caratteristica proprio di tipo mutualistico, quindi un modello di business fortemente diverso da quello delle grandi banche e anche delle grandi banche di investimento. E l'aspetto delicato sicuramente per qualsiasi governo che si dovesse in qualche modo formare o che non andrà a formarsi prossimamente è che il testo originale del 2016 fa riferimento al fatto che entro il mese di maggio del 2018 questi tre gruppi bancari si dovrebbero in qualche modo costituire pienamente e dovrebbero entrare in funzione. E se però ci fossero dei problemi alla formazione di questi gruppi, si è parlato nei mesi scorsi di difficoltà a praticamente raccogliere tutto il capitale necessario al funzionamento di questi gruppi, allora le cose potrebbero sicuramente iniziare a scricchiolare, ed è una partita che qualunque, insomma, formazione di governo dovesse formarsi dovrà gestire immediatamente. Quindi, alla luce di questo discorso, la notizia del fatto che l'Unione Europea ha concesso, insomma, all'Italia di utilizzare aiuti di Stato per le piccole banche in difficoltà è correlata a questo discorso? Diciamo, l'impressione è che sia correlata, proprio perché almeno, diciamo, se dobbiamo mettere insieme i pezzi, nel caso in cui fosse necessario utilizzare manovre d'urgenza per rendere operativi questi gruppi, sicuramente questo provvedimento della Commissione Europea dà in qualche modo gli strumenti necessari, che poi è stato proposto dalle autorità italiane, forse anche, qui diciamo è uno scenario così ipotetico, in previsione di una cosa del genere.